Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, vi portiamo a Trieste questa sera per parlare di un nuovo tipo di motore elettrico che punta a costituire un'alternativa ai tradizionali azionamenti presenti a bordo delle navi, ma non soltanto, come vedremo. Lo stanno mettendo a punto con la collaborazione di imprese del settore navale, quali Lampas System e Officina Navale Quaiat, l'Università di Trieste e Area Science Park, parco tecnologico il più grande d'Italia, dove andiamo per incontrare il nostro ospite di stasera, la coordinatrice del progetto, Martina Terconi. Buonasera Terconi. Buonasera. Allora, senta Terconi, l'aspetto più innovativo di questo motore elettrico è la forma e il design. In realtà è un motore elettrico con un design completamente diverso da quello di tutti i motori elettrici precedenti, cosa che a me sorprende sempre quando si fanno innovazioni così su oggetti che usiamo ormai da più di un secolo. Ecco, ce lo descriva, che cos'ha di diverso rispetto a un motore elettrico di quelli a cui siamo abituati? Sì, si tratta di un motore elettrico rotativo ma lineare che ricalca essenzialmente un cingolo ai quali sono poi opportunamente distribuiti gli avvolgimenti e i magneti permanenti. Perfetto, sì, si presenta un po' come, esatto, come i cingoli di un carro armato, per capirsi. Esatto. A vederlo così, naturalmente non c'entra niente, ma a vederlo così sembra un po' questo. E quali sono i vantaggi, oltre alla forma evidentemente completamente diversa? Ma i vantaggi sono strettamente legati alla forma, che ne permette, essendo stretta e allungata, anche l'alloggiamento in spazi ridotti. Altro vantaggio fondamentale è quello delle alte coppie che si riescono a raggiungere con questo motore a ridotte velocità di rotazione senza ricorrere a sistemi di riduzione. Questo elemento ci permette di produrre un motore elettrico con elevata efficienza energetica, perché appunto ne riduce le inefficienze derivanti dall'accoppiamento indiretto e anche dall'inefficienza intrinseca delle coppie troppo basse dei motori elettrici. Ecco, cioè spieghiamo, insomma, questi motori elettrici hanno una coppia molto significativa quando sono fermi, ma appena cominciano a girare perdono coppia, no? E allora cosa si fa? Si mettono l'equivalente di un cambio, insomma, no? Qualcosa per ridurre, dei riduttori ci vogliono. Invece questo motore ha una coppia così alta che può essere ingranato direttamente, diciamo. Se fosse un'automobile lo si potrebbe attaccare direttamente alle ruote, oppure alle eliche in questo caso. Esatto, il carico può essere connesso ad uno, eventualmente anche entrambe le estremità, mediante un accoppiamento diretto all'albero. E quindi tutti questi ingranaggi che non servono fanno sì che il sistema nel complesso sia più efficiente. Ecco, quindi forma particolare, dimensioni ridotte, alta efficienza, alta coppia. Quali sono a questo punto le applicazioni alle quali state pensando? Ma il motore, a seconda delle diverse taglie con cui può essere dimensionato e prodotto, potrebbe trovare nuovissime applicazioni in numerosi settori. Il primo su cui noi abbiamo puntato è quello navale. Stiamo infatti portando avanti un progetto che ne prevede lo studio per la propulsione e il governo di imbarcazioni, ma anche per la movimentazione e sollevamento a bordo nave. Certo, di carichi o cose di questo genere. Ecco, ma perché vi siete concentrati su questo aspetto navale prioritariamente? Ma abbiamo avuto un'opportunità di sviluppare un progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia dedicato proprio all'ambito delle tecnologie marittime, e quindi in base anche alla vocazione del nostro territorio molto forte in questo settore. Ecco, però appunto questo motore, io consiglio a tutti di andare a vedere come è fatto su internet, perché è un oggetto davvero particolare, in realtà potrebbe essere usato in altri settori o sbaglio? Ma in tutti quei settori in cui c'è la necessità, come si diceva prima, di avere un motore ad alta coppia a velocità ridotte, ma che sia alloggiabile in spazi ridotti. Possiamo pensare ai veicoli elettrici, alla robotica industriale, ai sistemi di sollevamento, trasporto, a argani, ascensori. Insomma, chi più ne ha più ne metta, in realtà questo è un oggetto che ha un sacco di potenziali applicazioni. Senta Terconi, c'è un progetto in corso in questo momento che si chiama Progetto Merlan, che sta appunto per motore elettrico rotativo lineare per applicazioni navali. Il progetto è finanziato, come ci ricordava, dalla Regione Friuli Venezia Giulia. A che punto siete, insomma, dello sviluppo di questo progetto? e a che punto intendete arrivare, fin dove arriverete con questo finanziamento e poi vediamo cosa potrebbe succedere dopo. Ma il progetto prevede una fase di ricerca industriale e una fase di sviluppo sperimentale che punta quindi a dimostrare che questa nuova tecnologia è efficacemente impiegabile nell'ambito navale e vogliamo metterne in evidenza i benefici in termini di efficienza energetica, come si diceva prima, di risparmio di spazio, semplicità costruttiva, robustezza, affidabilità, ma anche silenziosità e versatilità di utilizzo. Ecco, perché fino a questo momento c'è un prototipo, che è quello sviluppato dall'Università di Trieste, dove è stato concepito questo motore, ricordiamolo, quella è la paternità, c'è un prototipo che è però una proof of concept e poco di più sostanzialmente. Quindi bisogna fare una prima ingegnerizzazione? Possiamo una dire prima così? Ingegnerizzazione e ottimizzazione, in questo caso studiata per l'applicazione specifica. Perfetto. In ambito navale. In questa fase di avvio del progetto siamo nella fase di ricerca industriale, in cui stiamo effettivamente definendo in maniera dettagliata la tecnologia da adattare in questo settore e stiamo valutando gli effettivi vantaggi e studiando gli eventuali svantaggi che questo motore oggi ha rispetto ai sistemi di attuazione tradizionalmente impiegati nel settore. Ecco, poi però ci sarà una seconda fase di questo progetto Merlan nel quale comincerete a mettere alla prova un nuovo prototipo, se ho ben capito. Esatto, passata la fase di progettazione definitiva, costruzione del prototipo, passeremo ai test in mare, dove andremo effettivamente a valutare, come dicevo prima, l'applicazione del motore sia per la propulsione e il governo dell'imbarcazione, sia per le movimentazioni a bordo. I primi test, che inizieranno nei mesi del 2018, verranno fatti su imbarcazioni di taglia piccola o medio piccola, ma la tecnologia è pensata poi per essere adattata anche a grandi navi. Grazie allora Martina Terconi e avanti così. Grazie, buonasera, arrivederci. Abbiamo ancora un minuto e allora vi racconto una curiosità, una notizia recente, un sistema che stanno sperimentando i ricercatori dell'East Greenland Ice Core Project per realizzare delle strutture stabili, fatte di neve e di ghiaccio al polo nord piuttosto che al polo sud. Ambienti estremamente ostili, come sapete, dove di solito la presenza umana è legata soprattutto ad attività di ricerca, e i ricercatori tipicamente hanno bisogno di luoghi per ospitare la propria strumentazione durante il funzionamento, a volte anche per i periodi in cui questa strumentazione non viene usata. E allora di solito che cosa si fa? Si scavano delle gallerie nel ghiaccio, ma è capitato spesso che queste gallerie a un certo punto crollassero, magari sotto il peso della neve. E allora i ricercatori di questo progetto che cosa hanno pensato? Hanno pensato di modernizzare, per così dire, la tecnica utilizzata da sempre per costruire gli igloo. Hanno messo a punto dei grandissimi palloni, immaginate dei salsicciotti lunghi anche fino a 40 metri e larghi qualche metro. Questi salsicciotti vengono posizionati sul terreno, vengono ricoperti da uno strato di neve, si lascia lì il tutto qualche giorno in modo che la neve ghiacci e si solidifichi. A questo punto il pallone può essere sgonfiato e rimane questa cavità circolare molto resistente, in grado di sopportare anche le nevicate invernali. Insomma, appunto, l'igloo in qualche modo rivisitato in versione moderna. E a questo punto è davvero tutto, ci fermiamo qui, vi do appuntamento a lunedì. A voi tutti, buona serata e buon fine settimana.